GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 350 persone sono state evacuate la notte scorsa da Gabria e San Michele del Carso, frazioni di Savogna di Isonzo, per i rischi dell'estensione in Italia dell'incendio sul Carso sloveno favorito dalla bora. Sotto controllo i roghi sul versante italiano, ma rimane l'allerta dei possibili nuovi focolai. Migliora la situazione in Valresa grazie anche all'arrivo della sospirata pioggia, elicotteri e canadieri in azione, completato ma non ancora del tutto agibile il bypass nell'alveo del Rio. A Casarsa il tradizionale incontro annuale degli emigranti, presenti tanti figli e nipoti di chi se n'era dovuto andare. La morte del professor Giuseppe Loduca, creatore della pallamano triestina, per il figlio Marco un esempio di vita non solo sportiva. Torna a Mittelfest, inaugurata a Cividale la 31esima edizione, filo conduttore gli imprevisti che stravolgono le abitudini e i popoli e persone. Le 8:31 minuti e 12 secondi, buongiorno e buona domenica da Giorgio Bearz e Francesca Terranova, che condurranno questa prima edizione del giornale radio del 24 luglio. Prima di parlare dell'emergenza incendi, che sono ancora attivi come sentiremo in regione, ma in fase di miglioramento, e sentiamo qual è al momento la situazione del meteo con le previsioni per questa domenica. Il cielo è in prevalenza sereno sulla regione, le temperature registrate alle 7 a Trieste 27 gradi, il mare poco mosso con temperatura di 26 gradi e mezzo, vento 20 km all'ora, Udine 24 gradi, a Pordenone e Gorizia 22 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 19 gradi, a Tarvisio e Forni di Sopra 15 gradi, a Piancavallo 15 gradi e 5 decimi, a Sappada 13 gradi, sul Monte Lussari 13 gradi, sul Monte Zoncolan 15, sulla costa a Lignano 26 gradi e mezzo, 26 gradi a Grado e la temperatura del mare qui è di 26 gradi. Le previsioni dell'ARPA: oggi il cielo è sereno, poco nuvoloso, di pomeriggio variabilità sui monti e localmente sulla fascia orientale, soffia bora moderata su pianura e costa, in giornata venti a regime di brezza, ma sul Carso e zone orientali potrebbe persistere borino, farà ancora molto caldo. In apertura dunque l'emergenza incendi, 350 persone sono state evacuate la notte scorsa da Gabria e San Michele del Carso, frazioni di Savogna di Isonzo, per i rischi dell'estensione in Italia dell'incendio sul Carso sloveno. Una decisione presa in via precauzionale a causa delle previsioni di bora che nella notte è infatti soffiata verso l'Italia dalle zone a ridosso del confine con la Slovenia, dove il rogo si era sviluppato già negli scorsi giorni e aveva ripreso vigore anche nella giornata di ieri. Una ventina di persone sono state ospitate negli alloggi predisposti in scuole e palestre dalla Protezione Civile a Savogna e Gradisca. Gli altri hanno trovato sistemazione da amici e parenti. Le operazioni sono state coordinate dai vigili del fuoco del comando di Gorizia, impegnati con una sessantina di uomini, con la Protezione Civile e il comune di Savonia. Oggi sorvoleranno l'area due canadere e due elicotteri. Non è arrivata la bora forte che si temeva, ma anzi finalmente un po' di pioggia sul Carso Isontino. Ci dice com'è andata la notte il comandante dei vigili del fuoco di Gorizia, Alessandro Granata. Molto meglio di quanto ci si aspettava. Si aspettava vento sostenuto sul Carso, invece è arrivata la pioggia che sicuramente ci ha messo in una condizione molto più favorevole rispetto a quanto si credeva che si credesse. Adesso vediamo come evolve nei prossimi giorni e penso che avremo una situazione sicuramente migliore. Sul fronte sloveno ancora l'incendio progredisce con l'intervento dei mezzi aerei. Si potrà comunque intervenire per abbattere l'azione del fuoco. Avete evacuato 300 persone circa questa notte in via precauzionale. Che ne sarà di loro oggi? 350. Stiamo valutando, perché se dovesse esserci la condizione favorevole che l'incendio non dovesse più minacciare queste zone, potremmo anche farle rientrare, ma stiamo valutando ancora. Non è il caso di così dire di cantare ancora vittoria. Andiamo in Friuli, ora, dove l'arrivo della tanto attesa pioggia ha migliorato la situazione in Valresia. Chiusa da giorni al traffico l'ex provinciale, è stato completato ma non è ancora del tutto agibile il bypass nell'alveo del Rio che permette l'accesso della viabilità da Resiutta. Ma sentiamo com'è andata la notte scorsa da Valmore Venturini del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine. notte, diciamo, c'è stata una pioggia provvidenziale che ci ha aiutato. Ha piovuto, non intensamente, comunque sicuramente questo ha aiutato e molto, diciamo. Al momento ci sono ancora dei focolai, soprattutto nella parte del sottobosco, e quindi si sta monitorando la situazione. Sul posto noi abbiamo due squadre del distaccamenti di Gemona e Tolmezzo e stanno operando in volo due Canadair che per il momento stanno facendo delle ricognizioni per decidere dove sganciare. È stato richiesto anche l'intervento di un elicottero per fare una ricognizione più puntuale dell'area, perché vi sono, l'area è molto vasta, vi sono centinaia di ettari, quindi bisogna decidere su quale zona intervenire. Le squadre a terra stanno controllando le aree di perimetro e lì la situazione, diciamo, che al momento è tranquilla, quindi direi che forse oggi si dovrebbe un po' decidere cosa fare, ma riteniamo, ecco, che si sta evolvendo in meglio la situazione. Sempre in Varese il fuoco è arrivato a poche decine di metri dalla proprietà di famiglia della signora Valente a Ruschis. Sentiamo la sua testimonianza. Purtroppo è lì vicino dove sta avanzando l'incendio, ce n'è una prima, dopo per fortuna noi abbiamo sabato scorso proprio tagliato tutto il prato, pulito. Il resto, la preoccupazione è tanta, perché oltre a mia dopo ci sono altre cose, una quindicina, ventina di casette, sono tutte seconde case, di famosi ex tavoli di una volta dove si portava in alpeggio le bestie fino agli anni fino al terremoto, insomma. Siamo stati su fatalità martedì, io e mio marito, tutto il giorno, abbiamo fatto altri lavori, insomma, tagliato alberi secchi e sistemato un po', e dalle notizie che c'era giù il mio cugino, che è il confinante, insomma, che abbiamo sta casa assieme, era su anche ieri, l'altro giorno è andato su a vedere, però la situazione, almeno le notizie che arrivano, il fuoco avanza e è vicino alla casa un po' più avanti della nostra. Comunque la preoccupazione è tanta, perché insomma è anche una zona che tutti bene o male un po' si sono sistemati, insomma, dispiacerebbe, anche perché è roba che abbiamo ereditato, roba di famiglia, insomma. Resia, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento e occupiamoci ora della situazione dei contagi in regione, con i dati che confermano il trend in calo. Sono 1783 le nuove positività, un tasso di positività del 20,37%, in terapia intensiva ci sono 6 persone, 2 in più di venerdì, mentre i ricoverati positivi al Covid negli altri reparti sono 281, con un calo di 3 unità. Si registrano 3 decessi. La messa e poi il pranzo comunitario a Casarsa della Delizia concludono l'incontro annuale degli emigranti di E Fasce. Tra i partecipanti anche il 32enne Giuliano Filippin, che porta nome e cognome del nonno emigrato in Argentina nel 49 da Erto. La sua testimonianza. Erto, la comunità di Erto e Caso. Io sono il primo della mia famiglia in tornare all'Italia. Avete fatto un patto, una promessa quel nonno? Sì, perché lui mi ha contato come era il suo paese, come era la tradizione, la sua famiglia. Io ho cresciuto con l'immagine in mia testa. E sei venuto a Erto, che è completamente purtroppo cambiata da quando è andato via tuo nonno. Che effetto ti ha fatto? Nostalgia, angustia, dolore. No, è molto è forte, sì. Casarsa della Delizia, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Mondo dello sport regionale in lutto per la scomparsa a 79 anni di Giuseppe Loduca, anima storica della Pallamano Trieste, con cui ha conquistato 17 scudetti e 11 titoli italiani giovanili. Sentiamone un ricordo nelle parole del figlio Marco Loduca. La parola che più ricorre come richiamo a lui è un papà, un padre. È stato un esempio, un padre per tanti ragazzi triestini, soprattutto perché la forza di questa squadra era sempre la triestinità, ovvero per i giocatori del luogo, ma anche per tanti giocatori che sono venuti da fuori, e stranieri. Come ricordo, sicuramente nelle capacità di legare tanti sponsor, tante persone importanti della vita cittadina come Mario Ducevic, Mario Cividin, Duina negli anni d'oro, che sono stati gli sponsor che hanno potuto portare questi successi a Trieste. Sicuramente un ricordo importante è lo scudetto della Stella dei 10 scudetti nel 92-93. Quello so che l'ha veramente dato un grosso sollievo, proprio una grossa gioia, proprio data dal fatto che erano un paio d'anni che eravamo in difficoltà sia economica sia di risultati, e quella vittoria lì del decimo scudetto della Stella davanti a un palazzetto di Chiarbola da 4.500 spettatori, quindi pienissimo, veramente quello so che è stato uno dei momenti più felici della sua carriera. Atletica leggera, la triestina Elisa Di Lazzaro è eliminata in batteria nei 100 ostacoli ai mondiali di Eugene negli Stati Uniti, settima nella sua serie con 13-16, 29esimo tempo, è fuori dalle semifinali per 4 centesimi. Calcio, l'Udinese saluta Molina che va all'Atletico Madrid, nell'operazione rientra anche Perez che torna in bianconero. Intanto continua il lavoro degli uomini di Mister Sottil negli tiro di Linz, oggi alle 17 nuova amichevole, questa volta con la nazionale del Qatar, partita che si svolgerà porte chiuse per motivi di ordine pubblico su decisione delle autorità austriache. La Fiorentina ha battuto 4-0 la Triestina in un'amichevole disputatasi a Moena. Le reti viola, realizzate tutte nel primo tempo, sono state messe a segno da Biraghi, servito da Nico Gonzales, da Ambarate e Bonaventura, entrambi su calcio di rigore, e infine da Saponara. Sempre nella prima frazione, errore dal dischetto di Jovic, che si è visto respingere la sua conclusione dal portiere triestino Mastrantonio, autore di almeno altre tre parate decisive nella ripresa. Tennis, la finale del torneo Città di Trieste ATP Challenger sui campi del Tennis Club Triestino vedrà impegnati questo pomeriggio alle 16.30 Francesco Passaro, che ha battuto ieri Francesco Maestrelli con un secco 6-2-6-1, e il cinese Zizhen Zhang, proveniente dalle qualificazioni, che ha superato 6-3-6-2 il francese Alexander Müller. Ha segnato il titolo di doppio con la coppia composta dall'ecuadoregno Diego Hidalgo e dal colombiano Cristian Rodriguez, che ha superato 4-6, 6-3, 7-5 il tandem italo-spagnolo formato da Marco Bortolotti e Sergio Martos Gornes. Gli spettacoli dal circo teatro per famiglie alle marionette di Podrecca, dalle parate di Zoff alla nuova drammaturgia dell'Europa centro-orientale è il programma della giornata del Mittelfest dopo l'inaugurazione ufficiale di ieri. In calendario Cividale diverse anteprime assolute dalle 10 alle 16.30, Deja Walk, camminata poetica con partenza da Piazza Duomo. Alle 10.30 al Parco Acrobati del Sole debutta lo spettacolo del progetto regionale Tempesta, che segna la rinascita delle marionette di Podrecca. Alle 5.30 oggi pomeriggio al Teatro Ristori in prima nazionale Cucù, spettacolo per famiglie con Anatoly Ackerman, uno dei più importanti clown al mondo. E alle 22 al Convitto Nazionale Paolo Diacono debutta Il Silenzio in Cima al Mondo, i voli taciturni di Dino Zoff nel cielo di Spagna 82, concerto di Cristian Carrara per le parole di Giuseppe Manfredi, con al centro della scena Pamela Villa Loresi. Una super orchestra con più di 140 elementi si esibisce questa sera al Teatro Verdi di Trieste, l'unione fra il coro e l'orchestra del teatro con l'orchestra della Filarmonica di Milano per il gran finale del progetto Beethoven. Eseguiranno Ouverture Léonore, la fantasia corale e la sinfonia numero 7 che stiamo ascoltando. Dirige Marco Seco, inizio alle 20.30. Per chi volesse conoscere i protagonisti di questo grande evento, li trova alle 11 al Caffè degli Specchi per un incontro con il pubblico. Inaugurato ieri al Boschetto del Ferdinandeo a Trieste, Triskell, il Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica. Nel boschetto, coppie in arrivo da tutta Italia celebrano il loro amore con un'unione celtica davanti a una vestale. Poco lontano, bambini e adulti ascoltano attenti una lezione di falconeria. Tanti laboratori e le rievocazioni proposte dall'ormai tradizionale Triskell, Festival di Musica e Cultura Celtica organizzato dall'associazione Uther Pendragon, che ha aperto i battenti della 22esima edizione al Boschetto del Ferdinandeo di Trieste fino al 31 luglio. Ma la parte più attesa è quella musicale. La sera il palco del Triskell si anima di cornamuse, danze, violini della tradizione celtica. Si alterneranno gruppi italiani e in arrivo dall'estero, tra cui due band dall'Olanda, una dalla Scozia, una dalla Bretagna francese. È un fascino che non tramonta quello della musica e della cultura celtica. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Cominciamo dalla segna stampa delle prime pagine dei giornali di questa domenica alle 8.44 minuti e 45 secondi con il piccolo edizione di Trieste. In apertura la fotonotizia sull'incendio a preoccupare il fronte sloveno. San Michele e Gabria in serata sgomberati i due borghi. E poi un'analisi sulle ferite del Carso, quei paesi entrati nella storia che bruciano come cent'anni fa, ai tempi della Prima Guerra Mondiale. A centropagina, verso il vertice al Mise, braccio di ferro con Varzila, non ci fidiamo, regioni, industriali e sindacati temono per l'intero sito, sul tavolo i 34 milioni del PNRR chiesti dai finlandesi. Di spalla l'addio al professor Lo Duca ha reso grande la pallamano triestina, il ricordo di un personaggio indimenticabile per diverse generazioni, le scuole medie la sua incubatrice per forgiare campioni. Nel capocronaca poi, vuoto e ormai a pezzi, il degrado del Carciotti in attesa della rinascita, lo stato del portone in legno e di altre parti esterne innesca l'allarme dello storico dell'arte Contessi, che per il recupero suggerisce l'esempio del Castello di Berlino. Messaggero Veneto, edizione del Friuli, apre con le bollette di luce e gas per le aziende 4 miliardi di euro in più. In taglio alto non si ferma il fuoco nei boschi del Friuli, isolata la Vallaresia, e ci sono 5 pagine interne dedicate a questo incendio. In basso il Mittelfest che apre ricordando la volontaria Elena schiacciata da un albero a Cialla. Per la cronaca di Udine, polveri sotto controllo in città, sforamenti però nell'Alto Friuli. Suo figlio ha avuto un incidente. 4 anziane sventano la truffa telefonica e le donne hanno capito che stavano per essere raggirate, avviate poi le indagini dalla polizia. Passiamo al Gazzettino del Nord-Est, pagina 10, notti tropicali, Venezia, Verona e Trieste, fra le città più calde d'Italia. L'apertura del dorso del Friuli è sul tema siccità, bruciati nei campi 250 milioni di euro, in alcune aree bruciato l'80% del raccolto. I voti della maturità nella fotonotizia centropagina, Friuli di manica stretta rispetto al resto d'Italia, secondo le statistiche del Ministero dell'Istruzione. Di spalla incendi, i pompieri sul fronte del fuoco con 80 gradi. Dal piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone, tornano a casa gli evacuati di Amiano e Sablici, ma si temono i roghi oltre confine, altri focolai in regione, a San Michele e Gabria sgombero serale. L'incognita bora sugli incendi, di spalla la cronaca, Gradese cade dal monopattino e in prognosi riservata. Lacrime e folla, Sant'Anna per Marco Mlacar, la chiesa non ha potuto accogliere tutti gli amici del 55enne morto sulle Dolomiti. Fumo e caldo frenano l'affluenza nella piscina a Gorizia e a fondo pagina la storia, se la campana di Oslavia non suona più, la regione era pronta a sostenere economicamente l'intervento di recupero già con l'assestamento di bilancio di luglio, ma per il momento la campana dell'ossario di Oslavia rimane ancora muta. Dalla prima pagina del Messaggero Veneto, edizione di Pordenone, migliora la donna zannata dal suo cane, è stato dissequestrato. La politica nella pagina principale della cronaca cittadina, il sindaco Ciriani smentisce, io a Roma no, resto a Pordenone, ho stretto un patto con la gente e rimango al timone della città. Passiamo al Gazzettino del Nord-Est, edizione di Pordenone, al centro la foto di taniche di plastica nel baule di un'auto mentre qualcuno le riempie d'acqua, il titolo rubinetti a secco, pronte le cisterne comunali a San Vito al tagliamento. Telefonate al numero d'emergenza caldo allestito dalla regione, sono 40.000 quelle ricevute soprattutto da anziani soli che vogliono essere rassicurati. Ponte Meduna, ecco perché non parte. Il consigliere comunale e regionale del PD, Nicola Conficoni, trova negli atti pubblici una lettera dell'assessora comunale alla viabilità Amirante, in cui chiedeva aiuto a FVG Strade e Autovie per scrivere l'indagine paesaggistica che ancora manca. I soldi sono fermi da un anno e mezzo. Alcuni appuntamenti di oggi, ci sono ancora biglietti in vendita per il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori insieme sul palco di Piazza Grande a Palma Nova per la nona tappa del tour che li vede cantare insieme per la prima volta nella storia delle loro lunghe carriere. Per il Festival Internazionale Cori d'Europa, stasera ad Aquileia in concerto il coro accademico universitario Obilic di Belgrado e il gruppo polifonico Monteverdi di Ruda alle 20.45 nella Basilica di Santa Maria Assunta. Il Festival Valcellina in Musica fa tappa a Clau alle 18.30 nella sala convegni del comune, dove il duo Dissonance, costituito dai fisarmonicisti veneti Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, presenta il concerto ieri e oggi attraverso un mantice. Per i programmi radiofonici alle 9.15 andrà in onda la quarta puntata di Quel sogno di un valzer, l'operetta in 13 ritratti di Gianni Gori, per la regia di Guido Pippolo dedicata al re del valzer, Johann Strauss. Per i programmi televisivi alle 9.15 su Rai 3 in programma il filmato Ceghedaccio 2022, seguito dal videofilm Il suono di Pan Caffè di Dioniso. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio curata da Francesca Terranova e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Viola Romanese, a collaborazione d'azione Manuel Bussani. Ora alla rubrica Vita nei campi, noi ci risentiamo alle 12.15. A tutti l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.